Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12 e 15 minuti, 40 secondi, nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi parliamo del digitale terrestre, del passaggio dall'analogico al digitale. Cercheremo di capire qualcosa di più, cercheremo di affrontare tutti i vostri dubbi e anche i miei personalmente, perché ho avuto qualche difficoltà ad adeguarmi a questo cambiamento, quindi immagino che di domande ce ne saranno e come. Noi siamo qui pronti per cercare di affrontare tutti i dubbi, le perplessità. Lo facciamo con due ospiti. Il primo è in studio con me, Gianfranco Giardina, direttore del portale di tecnologia di day.it. Buongiorno, benvenuto. Grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E telefonicamente è collegato con noi Domenico Murrone, responsabile ADUC per le telecomunicazioni. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Prima però, come di consueto, andiamo a vedere che cosa sta succedendo sui mercati. Oggi una giornata importante perché finalmente dovrebbe essere risolta tutta la confusione che c'è intorno all'Irlanda. Parte oggi la missione della Banca Centrale Europea, della Commissione, del Fondo Monetario per capire qual è la situazione, la reale situazione per quanto riguarda l'Irlanda. Ha già parlato il presidente della Banca Centrale irlandese, il quale ha detto: ci aspettiamo questo piano, un piano che però è appunto un prestito, ci ha tenuto a sottolinearlo il presidente della Banca Centrale Irlandese, un prestito e non un salvataggio. Lui ha parlato di un prestito intorno ai 10 miliardi, si danno dei numeri anche più alti, si è parlato nelle scorse giornate di un prestito tra i 50, i 45, i 90 miliardi, staremo a vedere. Comunque i mercati scommettono su questo. Questo piano, intanto influenzati già positivamente dalla chiusura più che positiva di Tokyo questa mattina, che ha chiuso in rialzo di oltre 2 punti percentuali, procedono bene i listini del vecchio continente. Parigi guadagna l'1,6%, Francoforte l'1,38%, Londra guadagna l'1,33%. A Piazza Affari il FTSE MIB e il FTSE All Share sono in progresso dello 0,9% circa. Sul listino principale STM è ancora il miglior titolo, guadagna 3 punti percentuali, Pirelli guadagna il 2,5%, Fiat guadagna il 2,37%, sicuramente il titolo Fiat beneficia della presentazione della 500 negli Stati Uniti, beneficia di alcune affermazioni di ieri di Sergio Marchionne, diciamo anche un po' così provocatorie, per quanto riguarda ad esempio la vendita di Alfa Romeo. Se ci sarà qualcuno che mi consegna un assegno, che mi presenta un assegno da 20 miliardi, mi posso sedere al tavolo e parlarne, ha detto Marchionne. Ma certamente tutto il comparto auto beneficia del ritorno sui mercati di GM questo pomeriggio, per loro ovviamente all'apertura di Wall Street. GM torna sui listini. Tra i titoli migliori anche Exor, più 2,36%, Mediolanum che guadagna 2 punti percentuali, la Banca Popolare di Milano che guadagna il 2,07%. In fondo al listino invece troviamo Finmeccanica che cede l'1,21%. Per quanto riguarda Finmeccanica ci sono alcuni report negativi degli analisti, in particolare quello di Banca Akros, che ha tagliato la valutazione da Accumulate a Reduce con target price a 11,5. Il peggiore però è Ansaldo, che cede 3 punti percentuali, giù anche media 7-0,96%, Snam Rete Gas -0,46%, Terna e Impregilo cedono intorno allo 0,10% circa. Per quel che riguarda i cambi, lo dicevamo già nel corso del GR, l'euro si è apprezzato nei confronti del dollaro subito dopo le parole del presidente della Banca Centrale Irlandese, il cambio in questo istante è 1,36,37 sul dollaro. Chiudiamo questa breve parentesi di aggiornamento sui mercati, torniamo al tema di oggi che è appunto il digitale terrestre, lo facciamo subito con la nostra scheda. Entro un mese il digitale terrestre sarà una realtà, l'unica, per il 65% degli italiani. Il 26 novembre saranno 11 milioni i cittadini di Piemonte, Lombardia e delle province di Parma e Piacenza che diranno definitivamente addio alla televisione analogica. Entro il 15 di dicembre si uniranno a questi anche i cittadini di Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Liguria. Questi passaggi, sommati a quelli già portati a termine nei mesi scorsi, faranno sì che entro un mese quasi 2/3 degli italiani avranno definitivamente abbandonato la televisione analogica. Una conversione che è in atto in tutto il mondo, perché consente una maggiore efficienza nei consumi. Dal momento dello switch off, dunque, nessun canale televisivo sarà più visibile in chiaro, per cui è necessario attivare un decoder per digitale terrestre compatibile con il proprio apparecchio televisivo. Sono disponibili sul mercato diverse tipologie di decoder a prezzi differenti. Il valore dipende sostanzialmente dalle funzioni disponibili, per cui prima di acquistare il decoder è opportuno chiedersi di che modello avremo bisogno. Altrimenti si può acquistare direttamente un televisore di nuova generazione con decoder incorporato. Eccoci qui, 12:21 minuti, già cominciano ad arrivare degli sms per chiedere per la risoluzione di alcuni problemi. 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri appunto messaggi. E allora, abbiamo subito la telefonata di Marco da Milano, di cui avevamo visto anche l'sms. Buongiorno Marco, benvenuto, do subito la parola a lei prima ancora di far intervenire i nostri ospiti. Buongiorno. Ci dica. La mia domanda è questa: che fine faranno tutte le televisioni portatili che ci sono sparse nelle cucine e che prendono il segnale senza bisogno di essere collegati al cavo condominiale? Saranno da buttare via? Oppure bisognerà fare una prolunga di qualche metro antiestetica e che magari perde anche il segnale? Allora, signor Marco, lei non ci crederà, ma poco prima di cominciare la nostra trasmissione di oggi, io e Gianfranco Giardina parlavamo anche di questo caso, perché io ho esposto alcuni miei dubbi, le mie perplessità, i miei problemi pratici proprio nell'approccio con il digitale terrestre, e lui mi diceva: guarda che ci saranno tanti problemi anche proprio con tutte quelle piccole TV che ci sono dentro casa. Assolutamente sì, perché il segnale digitale non può essere ricevuto con le classiche antennine a baffo che avevamo su tutti i piccoli TV 14 pollici, quelli a tubo catodico. Tant'è vero che i nuovi TV LCD, anche piccoli, medio piccoli, grandi, nessuno ha un'antenna portatile già collegata. Ci sarebbe la necessità del segnale di antenna, diciamo, centralizzato, qualitativamente adeguato, cosa che è verissima sempre per il TV in salotto, ma per il TV in cucina, in camera da letto spesso non è così. C'è una soluzione che è un pochino scomoda, perché aggiunge un altro oggetto, un altro apparecchio, e di solito questi TV sono sistemati in spazi di solito angusti, che è quello di prendere un'antenna portatile che deve essere, attenzione, ottimizzata per il digitale terrestre, quindi non un'antenna qualsiasi. Tutti i negozi in questo momento nelle aree di switch off ne sono ovviamente forniti, e con questa antenna si riesce a prendere in quasi tutte le condizioni un buon segnale sufficiente per vedere i canali in digitale terrestre. Perché dico in quasi tutte le condizioni? Perché sono un po' penalizzati i piani bassi dei palazzi, i piani alti si piglia sicuramente meglio, le zone poco coperte o con segnali di soglia chiaramente c'è qualche difficoltà. In questo caso, nel caso in cui si sia in aree in cui il segnale digitale terrestre è di soglia o addirittura non presente, l'unica soluzione è passare a satellite. Ecco, quindi bisogna avere anche fortuna nell'abitare a un piano abbastanza alto per avere una maggiore speranza di ricevere meglio il segnale. Con Domenico Murrone, con cui anche ho parlato prima della trasmissione, affrontavamo anche con lui il caso di delle tante piccole TV sparse per tante, insomma, comunque in molte case ce n'è più di una, due, perché ce n'è anche una in cucina, ma ce ne può essere anche una terza magari in una camera da letto. Specifichiamo bene, Murrone, che per ogni apparecchio TV c'è bisogno di un decoder, se non è già incorporato nella televisione. Esattamente, praticamente o si dotano di un apparecchio esterno alla TV, oppure si rifà, diciamo, tutto il set dei televisori presenti in casa, e quindi in questi casi la spesa per poter vedere i programmi sul digitale terrestre comincia a diventare un po' più consistente rispetto a chi invece semplicemente può dotarsi, mantenendo il vecchio televisore, di un semplice decoder base in quel caso si spendono 30-40 euro, insomma una cifra molto bassa. E se uno avesse 3 o 4 televisori, dovendo o comprare 4 decoder oppure sostituire, perché magari uno un televisore se ne approfitta e si cambia, allora la spesa comincia a diventare di un certo rilievo. E certo, non, comunque sia mettendo insieme più decoder, anche se si acquista quello base, la spesa comincia a superare i 100 euro quando si parla di 3-4 decoder, a seconda di quanti apparecchi TV si ha all'interno del proprio appartamento. È arrivato un SMS leggendo il quale lì per lì sono rimasta piuttosto basita, poi mi è venuto anche un po' da ridere, lo devo ammettere, perché il signor Sergio ci scrive: ho 2 televisori con il digitale incorporato. Quando, e lui parla in questo caso della Rai, trasmette in HD sul canale 501, su una TV vedo e sull'altra sento solo. Abito in provincia di Pavia, il passaggio al digitale ci sarà la prossima settimana e il signor Sergio chiede: sapete darmi una spiegazione? Cosa che io ovviamente giro subito a Gianfranco Giardina. Assolutamente sì, con ampia probabilità si tratta di 2 TV diversi, evidentemente uno che è compatibile con le trasmissioni in alta definizione e un altro che non ha al proprio interno un decoder compatibile con le trasmissioni in alta definizione. Quindi aggiungiamo un ulteriore elemento di complicazione: esistono, oltre a diversi tipi di decoder, interattivi, non interattivi, zapper, quelli adatti all'alta definizione, quelli che invece non sono in grado di decodificarla all'alta definizione. Lo stesso vale per i TV adatti alle trasmissioni anche in alta definizione, quelli che pur avendo un pannello in alta definizione non sono in condizione di ricevere queste trasmissioni. Precisamente quello che succede al nostro ascoltatore con un TV che è compatibile con l'alta definizione e l'altro che riesce a decodificare l'audio ma non il video. Allora, fin qui abbiamo parlato di complicazioni, sicuramente continueremo a parlare di complicazioni nel resto della trasmissione, però non dobbiamo scoraggiarci, perché comunque si tratta di una fase di transizione, verso quella andiamo tutti e per cui non possiamo sottrarci da questo cambiamento. Un altro ascoltatore ci ha scritto: io vivo a Chieri, provincia di Torino, ogni 3-4 giorni devo risintonizzare il decoder del digitale perché si perdono alcuni canali in favore di altri. È un problema del decoder, chiede il signor Gabriele, e noi ricordiamo che per quanto riguarda il Piemonte in questo caso occidentale, il passaggio doveva già essere avvenuto. E allora io giro questa domanda a Domenico Murrone: è un problema del decoder o qui si innescano altri problemi per cui ogni 2x3 bisogna rimettere le mani sulla sintonizzazione? La risposta non può essere definitiva, nel senso che può essere sì un problema tecnico dello specifico decoder, ma allo stesso tempo potrebbe anche essere dettato questo problema dal fatto che in questo momento, essendo in corso ancora operazioni di assestamento nelle varie zone d'Italia, quindi non è escluso che per esempio dei lavori ai ripetitori possano provocare il problema. Sostanzialmente, siccome c'è una lotta tra le frequenze e quant'altro, anche se teoricamente tutto dovrebbe essere deciso al momento del switch off, quindi del passaggio, non è escluso che ci siano degli aggiustamenti, per cui si sposta un canale un'emittente televisiva da un canale all'altro e di conseguenza si perde il segnale, quindi è necessario questa risintonizzazione. Questo non è un problema raro, dir il vero, perché noi abbiamo fatto un po' di telefonate per vedere un po' com'era la situazione. Per esempio, questa operazione nei primi mesi del passaggio nella zona di Roma, per esempio, è stata fatta più volte in determinate zone, quindi non è necessariamente un problema legato al decoder, potrebbe anche essere dettato da problemi tecnici derivanti da lavori agli impianti in quella zona. Per questo potrebbe chiedere chiarimenti al numero verde del Ministero, al Ministero delle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, c'è un numero verde per dei chiarimenti, potrebbe informarsi prima di andare a spendere soldi in un nuovo decoder oppure pagare un tecnico, conviene almeno accertarsi di questo al numero 800 022 000. Allora, noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, quindi chiedo un po' di pazienza al signor Sergio da Lucca di attenderci, perché nel frattempo noi dobbiamo dare le notizie meteo. Le 12:35, Sergio da Lucca, buongiorno. Buongiorno signorina. Ci dica. Le volevo dire una gentilezza. Io ho una struttura ricettiva, no? Con 10 camere. Sì. Nelle quali camere ci sono 10 televisori. Certo. C'è una centralina nella soffitta. E volevo sapere dall'esperto se devo comprare 10 decoder. Allora, Gianfranco Giardina. Assolutamente sì. Un decoder per ogni TV. E aggiungo, magari non a favore del nostro ascoltatore, ma di tutti gli altri che ci stanno ascoltando, un decoder per ogni videoregistratore anche. Cioè, tutti gli apparecchi che si collegavano all'antenna, segnale d'antenna, e sintonizzavano i canali analogici, ora non potranno più farlo. Se vogliamo andare avanti a utilizzarli, quindi salvarli e non sostituirli con apparecchi nuovi, devono essere affiancati ognuno da un decoder indipendente. Il segnale d'antenna, salvo eventualmente piccole modifiche all'impianto, ma piccole, assolutamente non cambia invece. Tutta la sua, l'impianto d'antenna resta quello che è. Quindi un decoder per la TV, un decoder per il videoregistratore. Se si vogliono utilizzare i due vecchi apparecchi, assolutamente sì, se no non è possibile ovviamente videoregistrare canali del digitale, e neanche prendere il segnale dal TV, ammesso che il TV sia già col digitale integrato, ha molto senso, perché vuol dire videoregistrare lasciando il TV acceso, e acceso su quel canale specifico che vogliamo, certo, vedere. Certo, quindi non ha senso, non ha assolutamente se noi siamo, senso. Certo. Sia se vogliamo vedere una cosa e registrarne un'altra, e sia se vogliamo registrare quando siamo fuori casa, e vorrebbe dire solo un consumo solo per tenere il TV acceso molto più alto del costo per prendere un videoregistratore nuovo. Aumentano gli apparecchi che dobbiamo mettere lì vicino alla TV. Purtroppo sì. Bruno da Monza, buongiorno. Ah, buongiorno. Ci dica. Grazie per lo spazio. Io ho un problema che probabilmente è al contrario di quello del radioascoltatore precedente, perché da qualche mese io abito a Monza, in Lombardia alcuni canali sono passati sul digitale terrestre, sì. E quasi tutti nel nostro condominio ci siamo attrezzati appunto con un decoder o con un televisore nuovo. Recentemente però riceviamo una richiesta dal nostro amministratore di una spesa prevista per adeguare l'impianto centralizzato del condominio di circa 3.500 euro, e dice che questa modifica è necessaria per rendere visibile il segnale del digitale terrestre su tutti i televisori del condominio, cosa che mi sembra strana, anche appoggiandomi a quello che è appena stato dato dall'esperto. Vuoi sapere se effettivamente nei condomini deve essere modificato qualcosa a livello centrale oppure no, visto che ognuno di noi si è già dotato di un suo decoder personale. Grazie. Grazie a lei. Allora, scinderei la domanda in due parti, perché la parte economica poi vorrei chiederla a Domenico Murrone, anche perché mi è sembrata una spesa un pochino alta. Comunque, per quanto riguarda i condomini, anche perché poco fa parlavamo del fatto che a Milano ci sono alcuni canali che non sono ancora perfettamente visibili, ad esempio il mio caso personale, lo faccio in questo istante perché mi trovo qui, per esempio non riesco a vedere la 7, ma non la riesco a vedere in questo momento. Allora Gianfranco Giardina mi spiegava forse oggi no, ma domani, quando lo switch off sarà completamente terminato, questa condizione potrebbe cambiare. Sì, bisogna avere un attimo di pazienza in questa fase. Quando, non appena vengono spenti i canali analogici, le stesse frequenze vengono riutilizzate per ritrasmettere dei buchi digitali. E su ogni frequenza analogica ci stanno tra l'altro diversi canali digitali, quindi quello che noi siamo in condizione di vedere col nostro impianto, innanzitutto lo sapremo in maniera precisa e chiara solo a switch off avvenuto. Quindi solo che quando verranno spenti le frequenze analogiche, queste riutilizzate per trasmissioni in digitale. Quindi faccio il caso di La 7, può essere che la frequenza che La 7 oggi usa per trasmettere l'analogico la riutilizzerà per il digitale, e come tu oggi ricevi La 7 in analogico, probabilmente lo riceverai in digitale. Il più delle volte nei condomini sono filtrate soltanto alcune frequenze, questo per non avere disturbi da frequenze che non vengono utilizzate. Sì. In questo modo può essere che non si vedano tutti i canali, quelli che sono già trasmessi. A Milano La 7 in digitale è evidentemente già trasmessa, però probabilmente il tuo impianto specifico o quello magari di qualche nostro ascoltatore non fa passare quella frequenza specifica. Questo richiede una regolazione o eventualmente l'aggiunta di qualche filtro nella centralina. Mi sembra strano se possano aggiungere costi di quell'entità. Cosa diversa è se l'impianto è molto vecchio e quindi va sostituito il cavo, il cablaggio intero condominiale, sì, che dall'antenna porta in tutte le abitazioni. Allora sì, l'intervento può essere molto più oneroso, ma per sapere se è questo il caso, la controprova è molto semplice. Se il nostro ascoltatore e tutti i suoi amici condomini ricevono già oggi delle frequenze digitali, le ricevono correttamente, si tratta semplicemente di fare una regolazione del centralino d'antenna sul tetto, praticamente, perché vengano agganciate tutte le frequenze utili. Va tenuto presente che bisogna ovviamente vedere poi caso per caso, perché nel caso in cui la centralina fosse drammaticamente vecchia e magari richieda, a prescindere dal digitale terrestre, certo, un adeguamento o una sostituzione, certo, certe spese possono anche esserci, però ecco, bisogna però, sempre fare attenzione. È bene sottolineare, Gianfranco, che richiamiamo l'antennista nel momento in cui è avvenuto lo switch off, cioè forse è inutile chiamarlo prima che questo processo si sia completato, perché sennò si rischia di chiamarlo due volte forse. Se proprio dobbiamo dare un consiglio e abbiate pazienza, magari invece di vedere la TV sentite Radio 24. Certo. Meno male che l'hai detto tu. fino alla fine del percorso di switch off, e dopodiché si fanno degli interventi mirati, se no si rischia di chiamare l'antennista due volte con i relativi costi. Certo. Domenico Murrone, questo costo così alto, come ci si può difendere anche da delle richieste che forse in questi periodi di switch off un po' sparso su tutto il territorio sono un po' lievitati? Ma in teoria il Ministero delle Comunicazioni ha, dico Ministero delle Comunicazioni che non esiste più, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto dei patti con le associazioni degli installatori per calmierare i prezzi, per cui ci sono una serie di un elenco su un sito che è quello di riferimento per le istruzioni per il digitale terrestre, che è digitvi.it, che praticamente dove ci sono una serie di indicazioni su come trovare gli installatori che hanno aderito a questo meccanismo per tenere i prezzi bassi. Insomma, ovviamente il consiglio è quello, anche se si prende il riferimento da questo sito, prendere almeno due o tre nominativi e comunque chiedere quanto prende uno e quanto prende l'altro, perché a parte i patti d'onore stabiliti, poi ci può essere sempre chi è più furbo dell'altro. Sì, io volevo dire una cosa, perché può essere poi il costo più rilevante, perché praticamente tutti gli apparecchi, sia i decoder sia i televisori abilitati, sono tutti dotati, quelli attualmente in vendita, di una serie di bollini, e ogni bollino indica che tipo di capacità tecnologica ha l'apparecchio. Quindi si parte dal bollino grigio, che è riservato ai decoder, che fanno sì che si possano vedere soltanto i programmi sul digitale terrestre liberi, quindi non a pagamento. Poi ci sono bollino bianco, blu, silver e gold, che permettono di avere più o meno servizi. Ci sono quelli, i decoder o televisori, che fanno su cui è possibile anche installare una scheda per ricevere la TV a pagamento, quelli che permettono la visione, come si diceva prima, della TV ad alta definizione, quella che permette di avere dei servizi interattivi fra virgolette base, e quelli più sofisticati che necessitano anche di un collegamento con la linea DSL del telefono. Quindi è importante, al momento in cui si decide di dover acquistare degli apparecchi oltre al decoder, di avere più o meno in mente qual è l'uso di quello specifico televisore. Se per esempio su quel televisore vogliamo vedere anche dei programmi di TV a pagamento, allora a quel punto acquistare una TV già predisposta. Certo. E questo è molto importante, perché altrimenti magari si rischia di risparmiare 50-100 euro per l'acquisto di un televisore, e poi dopo dice ma io questa funzione non ce l'ho, tipo l'alta definizione come nel caso di prima. Quindi è importante vedere e chiedere magari al rivenditore, ma esistono sia su internet sia in giro delle guide, per ogni bollino, per ogni colore di bollino ci sono delle funzioni, quindi rendersi conto innanzitutto di quali sono le funzioni che si vuol fruire, dopodiché fare l'acquisto cercando ovviamente di risparmiare. Sì, allora, tornando però, facendo un passo indietro e tornando alla famosa lista degli antennisti che possono intervenire, mi diceva Gianfranco Giardina che sì, è vero, andando sul sito ci sono queste liste, però per alcune regioni e province sono più forniti e per altre purtroppo. Sì, abbiamo su Didei.it fatto un'inchiesta proprio in questi giorni specificamente, perché andando sul sito del Ministero, gli antennisti per tutta la provincia di Milano censiti sono due. Quindi stiamo parlando due per mal contati 2 milioni di persone. Quindi assolutamente una cosa impossibile. Mentre per esempio andando nella provincia di Trento sono censiti 866 antennisti. Ho chiesto a CNA e Confartigianato, che hanno compilato questa lista, come mai, e la risposta è molto semplice: nella zona di Milano, evidentemente una zona dove c'è molto mercato, molto inurbata, gli antennisti, gli artigiani che hanno sottoscritto il preziario comune per la Lombardia e un codice etico, che poi non è niente di particolare, salvo il fatto che viene detto di fare il preventivo prima di fare i lavori, tanto certo, per intenderci, sono stati soltanto due, no? E questo la dice lunga. Noi abbiamo pubblicato sul nostro sito il preziario di riferimento per la Lombardia, a cui invitiamo per esempio tutti gli utenti lombardi a fare comunque riferimento, perché comunque hanno dei riferimenti che non sono poi economicissimi, ma sono dei prezzi di mercato assolutamente corretti, per confrontare o prendere in considerazione qualsiasi tipo di preventivo. Può essere una buona base di partenza. Le 12.48, Marco da Modena, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ci io dica. Mi sono appena collegato alla vostra trasmissione, quindi non vorrei fare delle domande che avete già risposto. E lei dica e poi noi la mia domanda è questa: se io acquisto un decoder tipo quei modelli che si possono attaccare direttamente alla scarta, cioè dietro, quelli piccoli da intorno ai 20 euro, sì, e lo attacco invece che alla televisione, lo attacco al videoregistratore, poi collego il videoregistratore con la TV, riesco a registrare? Assolutamente. Prego. Sì, registra, lei ha attaccato in questo modo un decoder al videoregistratore, quindi registra. L'unico consiglio che mi sento di dare, ma questo vale per tutti i decoder, soprattutto quelli piccoli, lei ha parlato di un prezzo molto basso, intorno ai 20 euro, è verificare che sia garantita la compatibilità LCN. Mi dispiace aggiungere un'altra sigla alle tante sigle, ma è il sistema che garantisce la numerazione automatica dei canali, quindi RAI 1 sull'1, RAI 2 sul 2, RAI 3 sul 3 e così via. È una cosa alla quale siamo molto abituati. Vista la necessità di queste continue risintonizzazioni, certo, se i canali vanno in ordine al loro posto è una bella cosa, se no vengono sistemati all'1, al 2, al 3 semplicemente in ordine di scansione delle frequenze, quindi ogni volta c'è una sintonizzazione bisogna ricominciare. Quindi nel caso di una videoregistrazione si rischia di registrare un canale sbagliato. La domanda del signor Marco: visto che ha citato la presa SCART, ci dà la possibilità di rispondere anche ad un SMS di un ascoltatore che ci chiede: ma quei televisori senza presa SCART dove vanno a finire? Dove vanno a finire? Vanno a finire male questi televisori? In discarica. Ricordiamo, visto che parliamo di discarica, che i TV sono RAE, quindi rifiuti elettrici e elettronici, non possono essere buttati nella spazzatura, però quando si compra un apparecchio il rivenditore ha il dovere di ritirare quello vecchio senza spese per il consumatore e smaltirlo. Quindi ricordiamo anche questo, visto che siamo un cambio di, certo, di TV e di apparecchi, molti vengono buttati via. Renzo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, allora io volevo chiedere questo, ero abbonato Sky, no? da parecchi anni, quindi avevo l'antenna satellitare e non avevo l'antenna terrestre. Avevo visto una pubblicità di TVSat che mi diceva che se prendevo il decoder satellitare potevo vedere tutti i canali esteri che vedevo con Sky, senza pagare ovviamente il canone Sky. Così ho disdetto Sky e acquistato il digitale satellitare ad un costo anche di 140 euro, insomma non è che... Non da poco. Non da poco. Ho installato il tutto, eccetera. Per un periodo vedevo solo la RAI, no? Sì. Quando c'è stato lo switch off nella mia provincia, in Lombardia, da allora non vedo più niente. Come mai? Ho provato anche a cambiare satellite, perché prima era Hotbird e poi era Eutelsat o qualcosa del genere, ma non vedo più niente. Allora, vediamo un po'. Domenico Murrone, ci può aiutare, anzi può aiutare nel caso specifico il signor Renzo? Ma purtroppo è difficile sapere esattamente cosa accade. Diciamo che la piattaforma TVSat, che è stata creata da Mediaset, Rai e anche Telecom Italia, la 7, è una piattaforma alternativa a quella di Sky, che praticamente dopo che c'è stato un po' di polemica in questo senso, che la RAI non è più visibile nei programmi criptati sulla piattaforma di Sky, quindi questo ha generato un po' di polemiche di diversa natura. E teoricamente il sistema è pubblicizzato dal consorzio TVSAT come alternativo al digitale terrestre, soprattutto in quelle zone dove praticamente c'è una cattiva ricezione, anche prima poteva esserci una cattiva ricezione delle televisioni. Quindi è difficile adesso individuare il problema specifico. In teoria dovrebbe funzionare a maggior ragione quando c'è stato il passaggio al digitale terrestre. Ora, che sia un problema tecnico dello specifico apparato oppure un problema di transizione visto questo passaggio digitale terrestre, ma dubito, perché quello va a finire sul satellite, quindi non è che siano necessariamente collegate le due cose, è difficile da appurare. Sicuramente il cliente che ha il frutto della pubblicità di TVSAT ha visto, che gli è stato detto che vedi questi programmi se ti acquisti questo decoder, ha diritto alla visione di questi canali. Posso velocissimamente, velocissimamente, questa ci sono alcune zone che anche prima del digitale terrestre non ricevevano i programmi televisivi se non tramite la parabola, quindi le persone che sono in zone particolarmente svantaggiate purtroppo dovranno fare uso di parabole appoggiandosi a una delle piattaforme satellitari. È evidente che questo può essere un ulteriore costo per l'utente. Allora, abbiamo pochissimi secondi, io mi scuso con il signor Francesco da Bari, ma purtroppo non facciamo proprio in tempo a farlo intervenire. Volevo girare l'ultimissima domanda a Gianfranco Giardina, perché l'SMS recita: ci sono dei decoder che registrano sull'USB? Io alzo le mani e lascio a te la risposta. Assolutamente sì, è il modo di registrazione più utilizzato nei nuovi apparati. Questi apparecchi hanno normalmente un doppio tuner, quindi sono in grado di visualizzare sul TV un canale e registrarne un altro contemporaneamente, attenzione, solo sulla chiavetta USB. In più, la chiavetta USB non può essere portata su un altro apparato, quindi che sia un computer o un altro ricevitore anche della stessa marca, e il contenuto è criptato e legato alla riproduzione su quello stesso apparecchio, quindi è un po' più vincolante, anche se la chiavetta USB è un supporto mobile, ecco, non si comporta come le vecchie videocassette, questo va chiarito. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato, io ringrazio i nostri ospiti, al telefono Domenico Murrone, responsabile ADUC per le telecomunicazioni, in studio con me Gianfranco Giardina, direttore del portale di tecnologia di day.it, ringrazio in redazione Gaia Romani, in regia Fabio Cantadori, l'appuntamento con Salvadanaio è per domani, arrivederci.